Io sì che ti avrei fatto vivere una vita di sogni che con lei non puoi vivere. Io sì avrei fatto sparire dai tuoi occhi la noia che lei non sa vedere. Ma ormai sì, t'avrei detto mio amore, cercando le parole che lei non sa trovare. Io sì, t'avrei fatto invidiare dagli stessi tuoi amici che di lei ora ridono. Ma ormai capire che il bello della sera no, non è soltanto uscire. Io sì che t'avrei insegnato che si incomincia a vivere quando lei vuol dormire. Ti amo come lei non sa dire. Sì, l'avrei fatto sapere quante cose tu hai che mi fanno impazzire.